la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì 4 settembre, qui siamo in diretta alle 16:30 primi 30 secondi dagli studi di Radio 24 di Milano. Grazie per essere in ascolto e per chi ci sente scaricandoci in podcast. E un saluto, per così dire, veramente quasi lacrime da parte mia ai Doors, Jim Morrison, perché questa è l'ultima puntata con This is the End. Naturalmente pronti nel caso in cui, speriamo di no, le cose dell'economia italiana andassero di nuovo male nei prossimi due trimestri o nel prossimo trimestre, a tornare a This is the End. Però da lunedì nuova sigla, perché nel frattempo continuano ad arrivare le vostre proposte. Noi questo fine settimana abbiamo una short list che stiamo facendo con il meglio del meglio delle vostre proposte, e vi ringrazio perché avete veramente scritto in tanti, continuate a farlo se volete farlo oggi ancora, sia alla versione di Oscar che alla mia posta o giannino@yahoo.com o su Facebook, Twitter, dove volete. Però alla fine lunedì mattina noi decidiamo e vedremo il massacro di reazioni alla nuova sigla che ci accompagnerà per molto tempo. Naturalmente questa sigla che sta andando via adesso ci ha accompagnato in anni dolorosi dell'economia italiana, e la volontà di cambiarla da parte mia non è tanto sulla convinzione che tutto andrà per il meglio, ma sul fatto che comunque bisogna lavorare con un po' di fiducia e ottimismo. E a proposito di fiducia e ottimismo, però, dac, beccatevi la puntata di oggi con due storie che sono due storie, chiamiamole di malstato, come dico io, mi verrebbe voglia di dire stato ladro, ma questa volta preferisco dire malstato, perché in questo paese in cui per esempio non si parla più del debito commerciale dello Stato e sui fornitori, perché sembra che il problema sia risolto, e si sanano le regioni che per 20 miliardi hanno distolto i fondi che servivano a pagare i fornitori, ne abbiamo già parlato in una puntata, e che hanno utilizzato per altre spese, e nel frattempo intanto i tempi di pagamento dello Stato hanno ripreso a risalire, perché per esempio nella sola sanità nei primi sei mesi di quest'anno si è passati, dati ragioneria di Stato confermati dall'associazione di categoria delle imprese sia per i dispositivi sanitari che per i farmaci, si è passati a una media di 180 giorni di nuovo tra tutte le regioni, con punte in cinque regioni che sono naturalmente Campania, Lazio, eccetera, e Molise è quello che è il record, fino a 600 giorni, e quindi i problemi non sono affatto risolti. Ma detto tutto questo, in questo paese dove con i denari dello Stato, cioè del contribuente, perché ripetiamolo, nella nostra opinione non esistono i denari dello Stato, esistono solo i denari di noi contribuenti, abbiamo due testimonianze oggi di come lo Stato, che ci fa le prediche sull'etica, poi si comporti davvero. E la prima testimonianza che mi ha molto colpito leggendone su Facebook è quella di un sindaco a cui la Corte dei Conti eleva delle contestazioni che confermano che i nostri possenti, sagaci, segugi di Stato, ai loro occhi non sfugge nulla della mala gestione per decine di miliardi, di oltre 800 miliardi di spesa pubblica. Pensate infatti che questo nostro primo ospite, che è un sindaco, il sindaco di Treviglio, si vede arrivare una contestazione dalla Corte dei Conti per ben 48 euro di caramella regolarmente a bilancio date ai bambini, e uno inevitabilmente si chiede: ma quanto cacchio sarà costata la pratica e le risorse umane addette alla contestazione di 48 euro in caramelle, perché ovviamente comune, bambini a scuola, i bambini e così via, come se fossero le cose veramente da contestare. Allora voi direte: ma stai cercando con il lanternino. Allora, se ci sono amministratori pubblici, assessori, comuni di piccoli centri che si trovano in condizioni simili, e cioè gli arrivano contestazioni di queste fantasmagoriche cifre, mentre per il resto noi saniamo le regioni per 20 miliardi perché hanno distolto i fondi di noi contribuenti, non hanno pagato i loro debiti, chiamateci. Questo sarà il primo ospite nella prima parte della trasmissione, il nostro sindaco di Treviglio. Poi avremo un altro cittadino comune che da anni è in lotta contro lo Stato, perché lo Stato lo ha espropriato, sui terreni servivano per delle opere pubbliche, e voi mi direte: va bene, ma la Costituzione consente di farlo. Certamente, purché lo Stato però si ricordi espropriando di dovere degli indennizzi. E invece colpo piffero che lo Stato gli ha dato l'indennizzo, anzi non si è neanche peritato, come ascolterete, di mettere in atto tutte le procedure formali che sono necessarie perché un esproprio sia legale, altrimenti è un furto, e in questo caso questo cittadino è stato espropriato del suo con un furto. E vedrete che il soprannome di questo cittadino è D'Artagnan, capirete perché, perché è un tipo abbastanza singolarmente convinto delle sue ragioni, in lotta da anni tenacemente contro lo Stato espropriatore che non rispetta la legge, che per primo ha scritto, che per primo vi predica che voi non rispettate abbastanza, ma quando si tratta di rispettarla lui, spesso lo Stato c'ha di meglio da fare, per così dire. E allora, in questo venerdì di settembre, cominciamo con il nostro primo testimone di questa storia, di questo Stato asimmetrico nella sua funzionalità e nelle sue prediche etiche rivolte agli altri, ma troppe volte non a se stesso. E con noi, e io lo ringrazio, il sindaco di Treviglio, Giuseppe Pezzoni. Buon pomeriggio, signor sindaco. Buon pomeriggio a lei. Allora, ci dica, ma questi 48 euro in caramelle, insomma, lei è proprio un inguaribile sprecone della finanza pubblica. È vero, purtroppo sì. Noi abbiamo un'abitudine, secondo me, molto bella. Ospitiamo tutti i bambini dai nidi, una rappresentanza dei bambini dai nidi alle scuole superiori, intorno al mese di dicembre, quando arriva in stazione a Treviglio la luce di Betlemme. Mm. E distribuiamo in ciascuna delle scuole un segno di pace, che è questa luce che vengono a prendere i ragazzi. Ci sembrava opportuno quest'anno, come gli anni scorsi, addolcire anche la cerimonia con delle caramelle, sottolineo, gommose e alla frutta, perché i bambini piccoli piacciono di più. Esatto. Abbiamo messo a bilancio i 48,25 euro, non abbiamo fatto gare delibere, sono spese economali, si esce, sì, si fa fare lo scontrino e stop. Ecco. Ce le siamo trovate contestate. E ve le siete trovate contestate da chi? Dalla Corte dei Conti, una comunicazione di ieri mattina. Io sono quindi arriva l'intimazione, quindi se voi non fornite tutte le giustificazioni ci può configurare il danno erariale. Certo, maggiori dettagli in relazione alle seguenti spese qualificate come di rappresentanza. 48,25 un totale sono 453,51 euro. Che è il totale delle spese di rappresentanza del Comune di Treviglio nel 2014. Il Comune di Treviglio gira un bilancio di 44.693.164 euro. Allora, su 44 milioni ci sono sti 48 euro e 460 di rappresentanza, sì, che però la Corte dei Conti dice: voi le caramelle non dovete comprarle. Non è sufficientemente istituzionale. La cosa che mi lascia anche perplesso sono le altre due voci, ah, perché noi abbiamo una ricorrenza civica che è San Martino d'Oro. San Martino è il patrono della città di Treviglio, il 28 di febbraio lo assegniamo, e assegniamo delle targhe con scritto San Martino d'Oro e un diploma che racconta il... Ma avrete sprecato decine di migliaia di euro? Abbiamo sprecato 122 euro per la fornitura di astucci di velluto con targa incisa per il San Martino d'Oro e 58,56 per i diplomi personalizzati. La prossima volta penso che mi adatterò a formare un foglio A4 di quelli, insomma, così che posso aver fiato. Senta, lei da quanti anni è sindaco? A Treviglio sono sindaco da 4 anni, prima ero stato sindaco di un altro paese qui vicino per 11 anni. E contestazioni in passato alle vostre? È la prima volta che mi capita, per quello che sono esterrefatto. Secondo lei, voglio dire, sarà perché, come tutti i comuni, è sottoposto a un vaglio talmente preciso il bilancio del comune che anche 48 euro si vedono? Io non credo così, ma nella sua esperienza è così? Assolutamente no. C'è una legge, un decreto legge 78 del 2010 che limita al 20% le spese di rappresentanza rispetto alle spese del 2009. In questo comune nel 2009 io non c'ero, 8.500 euro erano le spese di rappresentanza, ne hanno spesi 8.300. Noi avevamo messo a bilancio il 20% di 8.500, quindi circa 1.600 euro, ne abbiamo spesi 453. La cosa che mi lascia perplesso è che mi vengono a chiedere che senso ha spendere per il San Martino d'Oro, che è la riconoscenza civica. Dico, posso, manderò adesso. Ma la dovete abolire, come ovvio. Poi tutte queste feste cristiane, la luce di Betlemme, San Martino, lo Stato è laico, caro mio sindaco. Potrebbe essere anche per quello. Però dico, non credo che uno possa, beh, allora anche i patroni, cioè Pietro e Paolo, San Petronio, tutti i patroni che vogliamo. C'entra? Stiamo parlando di Roma, lei vorrà mica paragonare Treviglio a Roma. Difatti mi chiedo a quanti comuni siano arrivati, anch'io ho sentito poi tanta solidarietà. No, io dico Roma, perché a Roma nel frattempo che si contestano 48 euro di caramelle a Treviglio, ripeto, quello che mi preoccupa è quanto costa l'apparato pubblico che fa questo genere di controlli, verifiche, comunicazioni, controcomunicazioni. Ecco, questo non lo so, ma ricordo che noi a Roma, con 3 decreti salva Roma, uno Alemanno e 2 sotto l'attuale sindaco Marino, noi abbiamo levato dalla gestione ordinaria del bilancio di Roma la bellezza di 18 miliardi di euro di debito che sono in gestione commissariale con questi 3 decreti. Questo avviene a Roma, che pure, per quanto grande è capitale, è un comune come tutti gli altri. Negli altri invece lo Stato contesta i 48 euro di caramelle. I 18 miliardi invece di debito messi in gestione commissariale, evidentemente lo Stato non li aveva visti prima, però risolve a metterci una bella toppa sopra, una bella simmetria all'interno dei grandi debiti. Si vede sempre di più. Purtroppo si vede sempre di più. Guardi, la simmetria io la vedo con una comunicazione del 16 di aprile, quando mi dicono che il fondo di solidarietà, perché poi è anche una questione nominalistica, una volta li chiamavano trasferimenti, danno al Comune di Treviglio 1.151.000 euro e mi dicono che il Comune di Treviglio deve contribuire al fondo di solidarietà portando via soldi dall'IMU, che una volta era un'imposta municipale unica, e di municipale adesso ha molto meno, 2.400.000. Questo vuol dire che l'IMU finanzia il fondo di solidarietà e che il saldo passivo per il Comune di Treviglio, cioè l'IMU che dovrebbe essere municipale, è andata a finire allo Stato. Quindi, e anzi, vi restano 900.000 ancora da coprire poi. Esatto, no, abbiamo dato 900.000 euro allo Stato di coprire il fondo di solidarietà. Qualcuno ne ha beneficato, ma noi adesso contesteremo. Cioè noi adesso, ma come si mette adesso che il 16 dicembre, dice il Presidente del Consiglio, c'è il funerale di IMU e Tasi? Guardi, e quindi... io le volevo sottolineare questa cosa, lo scrivevo l'altro giorno. Quando ho sentito il Premier, sono contento, per carità, per l'abolizione delle tasse, ma d'altro canto mi chiedo, come è possibile pensare oggi che un comune faccia il DUP, perché siamo esperti di acronimi, documento unico di programmazione? Io dovrei delineare la strategia del mio comune per i prossimi 5 anni, allegando un documento contabile che dura per i prossimi 3 anni, non sapendo a metà settembre se ci sarà l'IMU, l'ICI, la TASI, la TARI, la TARES e non so che cosa. Cosa faceva nella vita prima di fare il sindaco? Io sto continuando a fare il preside e l'insegnante nella mia scuola. Non faccio il sindaco a tempo pieno perché credo davvero che questo consente anche al Comune di Treviglio di risparmiare metà dell'indennità. Non uso il telefono del Comune di Treviglio, uso il mio, e questa è la cosa che mi amareggia. Dico, l'idea che 48 euro, perché nessuno obietta sui controlli, ma sul buon senso sì. Davvero, dico, credo che ci sia la necessità di rendersi conto che la burocrazia non deve giustificare la sua esistenza. La burocrazia deve essere a servizio dello Stato. Io l'ho chiesto. Ma questo basta aver letto un po' di Max Weber, non voglio dire Public Choice, Buchanan e così via, per sapere che abbiamo imparato dall'inizio del Novecento che in realtà la macchina burocratica è autogiustificativa e tende a espandere le proprie procedure, anche quando semplifica lo fa con un numero di atti superiore a quello che abolisce, perché in realtà di quella competenza vive autoproliferandosi la burocrazia. Naturalmente questo offenderà chi pensa invece che i poteri pubblici sono al servizio di interessi generali, ma io invece aderisco a un'altra scuola, diciamo, per così dire. Quindi io credo che ai 48 euro si arriva esattamente per quello che lei ha detto, per autogiustificare le risorse che si applicano a questo tipo di controlli. Mentre passa il tempo, più ne sono amaramente convinto anch'io. Appunto. Poi io ma è davvero conciliabile fare il direttore, cioè il dirigente scolastico di un complesso, istituti eccetera, e contemporaneamente il sindaco? Ma diavolo fa? Vuol dire avere anche una bella squadra di assessori, vuol dire lavorare bene, vuol dire non rendersi necessari perché nessuno è indispensabile, e vuol dire secondo me anche mantenere la testa un pochino nel mondo della scuola, essere giovane, dico, essere capaci anche secondo me di innovare, di portare il bene della contaminazione di una no, no, ma dell'altro. Io penso che sia giusto continuare a fare amministratori locali continuando a svolgere il proprio mestiere. Io non faccio il politico di professione. No, questo è chiaro. Ma adesso che pezzi di carta mandate? Gli scontrini? No, io ho 30 giorni di tempo, farò una relazione, dico, e il dirigente dei servizi finanziari si è già messo all'opera, e nella relazione farò una cosa che penso debba essere fatta, metterò anche il costo della risposta. Ecco, cioè, quanto ci è costato quanto è il costo di personale e di risorse che abbiamo impiegato per rispondere, perché così come succede nelle spese sanitarie, in cui uno si sente dire hai pagato il ticket ma la prestazione ti costa tot, credo che in questo momento uno debba anche dire allo Stato, di cui facciamo tutti parte, che dovrebbe secondo me anche rispettare un attimo di più le autonomie locali, Caro Stato, ti dico quello che sto spendendo per e fatti i tuoi conti, anzi dovresti anche tu dirmi quello che hai speso per fare questo controllo e comunicarmi questo esito. Questo glielo chiedo alla fine. Così brillante, certo. Per così dire. Comunque la realtà è che voi con quelle caramelle volevate corrompere i figli dei vostri elettori. Ho imparato anche che non si devono dare le caramelle ai bambini. Capito, la vecchia regola, io lì volevo arrivare, quindi meglio niente caramelle. Comunque, dietro queste amare risate, cari ascoltatori, pensate quante centinaia di migliaia di atti pubblici hanno come oggetto cose di questo rilievo, mentre pacchi di centinaia di miliardi girano nell'opacità più totale. Ecco, questa è la mia considerazione. Io ringrazio il sindaco Treviglio, che, come avete notato, anche con un po' di ironia e autoironia ha parlato in questi termini. Secondo me aiuta, che essendo impegnato nell'insegnamento capisce che bisogna avere comunque spirito pubblico, mentre io posso permettermi di essere un po' più anarco, liberale, individualista, per così dire. Comunque, grazie a Giuseppe Prezzoni, continuerò a vigilare sulla Corte dei Conti, sul bilancio l'anno prossimo, vedremo che cosa tirerà fuori, i conti delle puntine magari o cose di questo genere. Comunque, grazie al sindaco, noi torniamo tra un minuto con D'Artagnan, Pier Giuseppe Della Valle, di cui sentirete l'eroica impresa, l'espropriato non indennizzato in lotta contro lo Stato. Intanto, strada. La versione di Oscar. This is the beautiful friend. Eccoci qui, tornate in diretta, e ancora, appunto, questa volta ci sentiamo ancora queste note del This is the End, che io rimpiangerò solo perché mi è molto cara, ma nella speranza di beccare una canzone che esprima con altrettanta accuratezza il tempo in cui viviamo. Speriamo, quello della ripresa economica italiana. Io tossisco un po', però speriamo, perché sennò passo per ipergufo. E tra l'altro vi avviso anche che non domani, ma il sabato della settimana successiva, torniamo dalle 10 alle 12, come ogni sabato, poi per molti mesi a seguire, con la Compagnia dei Conti della Belva, con Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, e riprenderemo quindi anche questa sana abitudine, accompagnandovi dalle 10 alle 12 tutti sabato mattina. Abbiamo sentito in questa storia di malo stato italiano prima il sindaco di Treviglio con questi 48 euro in caramelle contestategli dalla Corte dei Conti su 44 milioni di bilancio, e adesso un italiano che non è un amministratore pubblico, è un italiano qualunque, uno di noi, che si trova anni fa ad avere un problemino, perché allo Stato, per esigenze di circolazione e così via, serve un pezzo alla sua proprietà. E la storia è veramente incredibile. Questa l'ho appresa leggendo sul Foglio del 19 agosto un articolo di Luciano Capone, che ringrazio e saluto per quello che fa come giornalista, e lì ho letto questa storia che ha dell'incredibile. Pier Giuseppe Della Valle, soprannominato D'Artagnan, e che nella sua lotta contro lo Stato, che non rispetta le stesse regole dello Stato, si è, per così dire, eretto come cittadino sovrano, come se fosse una repubblica a parte, con il nome di Pier Giuseppe I Della Valle, della Rotonda. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, caro D'Artagnan. Ah no, però si sente malissimo il collegamento, quindi dobbiamo ripristinare il collegamento, perché così i nostri ascoltatori sono privati della gioia di sentirla. E mentre ripristino il collegamento, mandiamo una telefonata a Michele, che ci chiamava da Bergamo. Michele, prego. Buonasera Giannino. Buonasera. Io saluto anche l'amico Pezzoni, che conosco personalmente, gli do la mia solidarietà. Io sono interno, nel senso che lavoro nella pubblica amministrazione da tantissimi anni, e devo rilevare che sul tema anche... Lei lavora nella pubblica amministrazione centrale o nella pubblica amministrazione locale? Sono segretario generale di un comune. Figura che è abolita oramai. Esatto, siamo aboliti. Lei è un abolito. Ecco. Ce lo siamo anche meritato, tutto sommato, come categoria, devo dire la verità. Comunque, ripeto, dico questo, è in buona compagnia l'amico Pezzoni, perché poco tempo fa, qualche anno fa, è capitato anche a Bergamo, in città, una roba del genere, riguardava 1.300-1.400 euro, quindi fatte le proporzioni tra Treviglio e Bergamo, siamo lì. Io però segnalo che, senza voler sparare contro i giudici della Corte dei Conti, che io stimo, conosco, per l'amor di Dio, fanno un ottimo lavoro. Ho avuto due esperienze. una prima esperienza, io facevo il segretario ma ero anche sindaco in un comunello, ho avuto la possibilità con la Corte dei Conti di sbloccare un'opera importante che riguardava il raddoppio della Treviglio-Bergamo, grazie anche all'aiuto della Corte dei Conti che è intervenuta su mia sollecitazione. Io infatti non generalizzo. Aggiungo, a parte questo, personalmente ho segnalato alla Corte dei Conti per dovere di servizio, perché sono un cittadino che un po' a certe cose ancora ci credo, ho segnalato delle cose piuttosto rilevanti, parlo di centinaia di migliaia di euro, e ancora dopo qualche anno non ho saputo, ma non solo, la cosa assurda che io voglio segnalare solamente è che chi fa queste segnalazioni non ha neanche la possibilità di avere dai giudici della Corte dei Conti un riscontro. Ma neanche se lo fa dal segretario generale di un comune? Neanche se lo faccio dal segretario generale. Hai capito, questo non lo sapevo e lo imparo. La mia funzione si risolve nel fatto che io abbia segnalato, ripeto, per dovere di servizio. Come lanciare una bottiglia nell'oceano, visto che lo Stato non segna di rispondere, ripeto, un segretario generale che in teoria esisteva prima della sua abolizione, anche proprio per questo, per essere l'interfaccia quindi delle segnalazioni di questo tipo qua. Abbiamo imparato un'altra cosa, siccome non funziona lo Stato, e grazie a Michele da Bergamo. Torniamo a sentire se la voce di Pier Giuseppe della Valle, il nostro D'Artagnan, è un pochino più chiara del collegamento. Buon pomeriggio, ci sente Pier Giuseppe? Sì signore, la sento benissimo, saluti a tutti quanti. Allora, ma lei come gli viene in capo di fare una lotta così contro lo Stato? E com'è? Come gli è venuto in testa? Ma senta, a lei, se spianassero una casa di 3 piani con 4 garage, un magazzino, 2 tettoie, 2800 metri di terreno, e pagandogli la metà del concordato, lei si arrabbierebbe? Ma io credo che resisterei con ancora maggior forza di lei, ma non faccio testo. Ma com'è che hanno pagato metà del concordato? Sì, perché questo nasce nel lontano 2000, perché prima dovevano fare questa tangenziale solo su un angolo dei terreni che io avrei molto molto contento regalato, perché non mi interessavano, avevo un piccolo frutteto lì. Sì. Però dopo 3 anni hanno variato il progetto e hanno coinvolto il fabbricato, terreni e via dicendo. Ma io capisco, io ho lavorato sempre negli impianti industriali. Lei lo sa che costituzionalmente è previsto il diritto di esproprio per interesse pubblico, certo, però la Costituzione dice con congruo indennizzo. Esatto, per pubblica utilità. Esatto. Io ho spiegato quei signori dicendo: scusate signori, ci mettiamo d'accordo, voi mi pagate, io vado da un'altra parte, non ho problemi. E invece nel 2003 abbiamo fatto una tonnellata di carte, perizie e via dicendo, sì va bene, ci mancherebbe eccetera, però tutte questi documenti l'ANAS, ente strade, ha questo piccolo problema che se tutti gli accordi fatti anche da chi preposto a trattare, infatti noi abbiamo fatto un accordo in prefettura che eravamo tanti come i francesi, certo, prefetto, viceprefetto, segretario, mia moglie, mia figlia, 2 avvocati e quelli dell'ANAS, che però devono ritornare firmati con il verbale di consegna. Sì, e sono tornati. E non l'hanno mai fatto. Non l'hanno mai fatto. Ma nel frattempo lo Stato al catasto comunicava tutte le variazioni avvenute? No, nel modo più assoluto. No. Noi siamo ancora nel 2015. Io ho già subito 2 processi e che mi hanno assolto e mandato ragione proprio perché l'ente strade non ha mai fatto l'esproprio e non ha mai fatto la registrazione agli uffici dell'entrata come chiede da decreto, come è stabilito da decreto. Non c'è nessuno che usa il condizionale, dice potresti, dovresti, no, deve. Ma lei perché ha seguito pure i 2 processi mentre nel frattempo... Signore, un processo penale perché io per protesta avevo piantato nel lontano 2009 i pomodori e mi sedevo bravissimo a leggere il giornale. Bravissimo, così si allora fa. La provincia, anche lì la provincia ha dichiarato al tribunale che quell'area era demaniale, il tribunale li ha autorizzati a fare lo sgombero, però io ero fuori per lavoro. Quando sono arrivato a casa ho visto che non c'erano più i pomodori, ho denunciato ai carabinieri. Fatto però bene. Loro cosa hanno fatto? Hanno fatto una controdenuncia per simulazione di reato, perché riconfermavano e hanno riconfermato che l'area era loro, che era demaniale. Esatto. E cosa che il giudice, a parte che abbiamo fatto un anno di processi e via dicendo, il giudice c'è perfino, ci ha ripresi un po' dicendo: ma scusate, bastava andare all'ufficio del catasto che si poteva constatare che i terreni sono ancora privati, perché l'ente, benché ha avuto tre proroghe, non ha eseguito l'esproprio. Ma dirò di più: nel periodo, e fortunatamente è arrivata questa notifica, l'ente strade nel 2009, in pieno processo, mi manda una notifica dicendo: dato che non abbiamo ancora eseguito l'esproprio, portaci i documenti che dobbiamo farlo. gliel'hanno messo per iscritto, che non lo avevano chiesto. Sì, no, c'è la notifica ufficiale con sotto in calce scritto: se te mi porti i documenti, però non firmiamo un accordo, noi depositiamo alla Cassa Depositi e Prestiti di Vercelli le somme allegate in calce. Benissimo, non hanno fatto neanche questo. Ma che cos'è secondo lei? Ma secondo lei che cosa c'è? C'è un accanimento personale? Lei ha qualche sospetto dopo anni di inadempienza? Guardi, secondo me il discorso qual è? È che, e dopo le racconto che è molto più comica il secondo processo. Purtroppo il secondo processo non ce lo potrà raccontare perché tempo finisce. Fatto un errore. Perché quando si finisce la proroga, cioè loro ne hanno avute tre. Di proroga, e non l'hanno esercitato. Doveva durare 4 anni, sono andate avanti fino al 2009. Ma non hanno fatto niente. C'è una legge che dice: dato che può darsi che un ente pubblico sia in difetto, c'è il 42 bis che si chiama atto sanante, che li sana, ma è esattamente lì che volevo arrivare. Questa è la certezza di essere sanati. Nel frattempo, cari ascoltatori, il nostro Della Valle è espropriato, non indennizzato, si paga le spese processuali e gandianamente resiste. Viva i Della Valle, ce ne fossero di più di cittadini italiani così. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a lunedì, naturalmente lunedì pomeriggio, con la nuova sigla, mi raccomando.